Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Berlino, le vittime sono 12. Secondo i media tedeschi, l'arrestato, un profugo pakistano, avrebbe negato tutto. Cordoglio da tutto il mondo. Rafforzate le misure di sicurezza in Italia. Era stato sospeso e reintegrato il poliziotto che ieri ha ucciso l'ambasciatore russo in Turchia. 7 fermi nella notte, proiettili contro l'ambasciata americana. Milano, Sala torna a fare il sindaco. Sono certo della mia innocenza, dice. A Roma Raggi annuncia una verifica su tutti gli atti di Marra. Scudo del governo per le banche, messo in campo 20 miliardi, secondo giorno di aumento di capitale per Monte dei Paschi, su il titolo in borsa. 11 arresti e sigilli a 3 aziende nel Trapanese, un colpo al clan del super latitante Matteo Messina Denaro per le imprese lavori nel parco eolico e nell'ospedale di Mazara. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto è metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno, @radio24.it invece se ci volete scrivere. In apertura dunque e naturalmente l'attentato di Berlino. Continueremo ad essere liberi e aperti, non vogliamo vivere paralizzati dalla paura e dal male, ha dichiarato Angela Merkel a proposito della strage di Berlino di ieri sera nel quartiere di Charlottenburg, in cui sono morte 12 persone ed altre 48 sono rimaste ferite, di cui alcune gravemente. La cancelliera tedesca, che ha riunito il gabinetto di sicurezza del governo, ha ribadito che non si rinuncerà ai mercatini di Natale, aggiungendo anche però che sarebbe particolarmente difficile tollerare se si confermasse che a compiere quest'atto è stata una persona che ha chiesto asilo in Germania. Il presunto autore dell'attacco nel cuore di Berlino potrebbe infatti essere un pakistano di 23 anni, registrato come profugo nel centro di accoglienza allestito in un hangar dell'ex aeroporto di Tempelhof, dove stamani la polizia ha eseguito una perquisizione. L'uomo, che aveva un permesso di soggiorno temporaneo scaduto a giugno ed era noto alle forze dell'ordine per crimini minori, è stato arrestato ma nega tutto. Secondo gli investigatori, si sarebbe impossessato ieri pomeriggio del tir usato nell'attentato dopo aver sparato al camionista polacco trovato morto sul sedile del passeggero. Il camion era arrivato dall'Italia con un carico di ponteggi d'acciaio. Su Twitter la polizia di Berlino ha scritto che si è trattato di un presunto attacco terroristico e che il camion è stato lanciato deliberatamente contro la folla. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Molte, naturalmente, le reazioni internazionali. Sentiamo. Mentre ieri le sirene stavano ancora suonando e i soccorsi erano in pieno svolgimento, il cordoglio dei leader europei e internazionali correva su internet. Dall'alto rappresentante europeo Federica Mogherini, che scrive su Twitter: notizie scioccanti da Berlino. L'Europa ancora una volta colpita, i nostri pensieri sono con tutte le vittime e le loro famiglie. Le fa eco sempre su Twitter il presidente francese François Hollande: esprimo solidarietà e cordoglio alla cancelliera Merkel, al popolo tedesco e alle famiglie delle vittime di Berlino. E anche Angela Merkel lancia il suo messaggio in rete attraverso il suo portavoce Stephen Siebert. Si è detta sgomenta per il possibile attentato a Berlino, scritto Siebert sul suo account Twitter. Dolore per la strage di Natale a Berlino, vicinanza a Angela Merkel e a tutto il popolo tedesco, scrive il premier italiano Paolo Gentiloni, sempre su Twitter. Messaggi tradizionali: da oltreoceano la Casa Bianca ha condannato nel modo più forte quello che sembra un attacco terroristico e il presidente russo Putin parla di crimine commesso contro i cittadini, che sconvolge per crudeltà e cinismo. Si affida invece a una nota in serata il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, scioccato per quanto accaduto a Berlino e portavoce del suo cordoglio e di quello dell'esecutivo comunitario ai parenti delle vittime e ai feriti. Per una nuova ferita europea. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Italia si ragiona di nuovo su come rafforzare le misure di sicurezza. Riunione al Viminale del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo. La convocata, dopo i tragici fatti di Berlino, il ministro dell'Interno Marco Minniti, per valutare insieme a Polizia e Intelligence lo stato di minaccia. Un'allerta che anche in Italia in realtà non è mai scesa a causa dell'aumento dei rischi di azioni terroristiche legato all'offensiva anti-ISIS in corso in Siria e in Iraq e anche al ritorno in patria dei cosiddetti foreign fighters. Venerdì scorso la riunione al Viminale del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza si era conclusa con la disposizione a mantenere alto il livello di attenzione e vigilanza. A prefetti e questori è stato chiesto di rafforzare i servizi di controllo nelle aree che richiamano folle: centri commerciali, musei, stazioni, luoghi di culto, aree dello shopping natalizio, tra cui i mercatini di Natale, uno dei quali ieri è stato colpito così duramente a Berlino. A Roma la questura ha già innalzato i controlli in prossimità di luoghi ed eventi turistici e commerciali, con particolare attenzione ai controlli e ai varchi di accesso. Come accaduto per via della conciliazione per il giubileo, si sta ragionando sulla pedonalizzazione di zone di grande flusso, anche con l'uso di Pilomat, dissuasori e barriere che impediscano il passaggio di veicoli. Oggi pomeriggio, proprio su questi temi, riunione a Roma tra questore e funzionari. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ma il terrorismo ieri ha colpito anche in un altro luogo, come sapete, in Turchia. Proseguono le indagini sull'assassinio dell'ambasciatore russo. I riflettori sono puntati là, sentiamo. È arrivata ad Ankara una delegazione di 18 membri, tra i quali investigatori e medici legali per l'autopsia, inviata da Mosca per indagare sull'assassinio dell'ambasciatore Andrei Karlov. Erdogan e Putin avevano concordato, immediatamente dopo l'attentato, delle indagini comuni. A rendere più inquietante ancora l'attacco di ieri, il fatto che l'uomo, in giacca e cravatta nera, che ha sparato alle spalle all'ambasciatore, uccidendolo mentre tutto veniva ripreso, era un agente di polizia, Mert Altantash, dell'unità antisommossa di Ankara, diplomato all'Accademia Rushdie Ünsal di Izmir nel 2014. L'ambasciata russa ha immediatamente puntato il dito su gruppi jihadisti, ma Ankara starebbe concentrando le indagini su altre piste. Stando a quanto riportato dal quotidiano filo governativo Sabah e ora anche dall'Hürriyet, Altantash potrebbe appartenere all'organizzazione di Fethullah Gülen. Il poliziotto, oltre ad aver studiato in una scuola preparatoria dell'imam miliardario e ad avere fornito come suo indirizzo lo stesso di un importante esponente gülenista, avrebbe ottenuto una licenza per i giorni tra il 16 e il 18 luglio. Il golpe, secondo Sabah, era programmato proprio per il 16 luglio e poi è stato anticipato al 15, quando l'intelligence ha scoperto che cosa stava accadendo. Nel frattempo sono state arrestate 6 persone, tra le quali il padre, la madre, la sorella e uno zio di Altantash. E oggi è iniziato anche a Mosca il summit tra il ministro degli esteri di Ankara Çavuşoğlu e i suoi omologhi russi e iraniani sulla questione siriana. Marco Barbonaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Istanbul. L'analisi è di Gigi Donelli. Una squadra di investigatori in Turchia per indagare le circostanze dell'attentato all'ambasciatore Karlov, ma anche forse e soprattutto per mandare un messaggio. Le relazioni tra Russia e Turchia non vengono messe a rischio dall'omicidio del diplomatico. L'attentato a Karlov, ha spiegato un portavoce della KP di Erdogan, è stato concepito per far deragliare gli sforzi di Turchia, Russia e Iran per risolvere il conflitto siriano. Mosca ed Ankara vogliono essere l'asse del nuovo equilibrio regionale e i 13 mesi trascorsi dall'abbattimento del Sukhoi 24 russo sui cieli della Siria da parte di un F-16 turco hanno temprato il dialogo tra Putin ed Erdogan. Il 9 agosto scorso il leader turco è andato a Pietroburgo per chiudere l'incidente con le scuse formali e in 4 mesi Mosca ha riportato Assad ad Aleppo e la Turchia ha manovrato per non impedirlo. Ora, forse, avranno più spazio i diplomatici, perché per entrambi i leader resta prioritario rilanciare il commercio bilaterale, da cui attingono l'ossigeno le rispettive economie. Leader forti sulla scena internazionale, su quello interno devono assicurare scaffali pieni e stipendi decorosi. Il 10 ottobre è stato intanto resuscitato il Turkish Stream, il gasdotto rivolto all'Europa che era rimasto congelato dalla crisi, mentre va avanti il lavoro sull'accordo di libero scambio. La firma è attesa per il prossimo anno. L'idea è di far crescere quei 44 miliardi di interscambio Mosca-Ankara, indispensabili anche per consolidare, 25 anni dopo la fine dell'URSS, il ritorno della Russia sulla scena internazionale. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. E passiamo alle cronache finanziarie di queste ore, a partire dalle vicende che riguardano Mediaset. Ieri il gruppo francese Vivendi, che è già salito al 20% del biscione, ha annunciato che è disposto a salire fino al 30%. Ebbene, oggi il titolo Mediaset ha fatto un balzo in borsa, più volte sospesa per eccesso di volatilità. In questo momento il guadagno è del 18,28% a 4,25 euro per azione. E poi c'è l'altro fronte, quello del Monte dei Paschi. Prosegue l'operazione di aumento di capitale, ma nel frattempo ieri il governo ha deciso di intervenire annunciando la disponibilità a mettere in campo per gli istituti bancari 20 miliardi. Sentiamo. Abbiamo avviato un'operazione che definirei salva risparmio. Ieri sera, borse chiuse, il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha così annunciato l'operazione che vale 20 miliardi e servirà a supportare le banche in difficoltà, a partire dal Monte Paschi di Siena, se dovessero esserci problemi con la ricapitalizzazione di mercato da 5 miliardi. Il Consiglio dei Ministri chiede quindi al Parlamento di autorizzare il governo a ricorrere a un maggior debito per 20 miliardi. Una misura, spiega il ministro dell'Economia, Piercarlo Padoan, temporanea. Questo ammontare messo a disposizione da questa operazione salva risparmio ha, ove attivata, un impatto sul debito, ma questo impatto sul debito è da considerarsi un impatto, una misura one-off, temporanea, e quindi che non impatta sulle grandezze di natura strutturale e sull'aggiustamento strutturale. L'operazione salva risparmio è precauzionale e le risorse potranno essere utilizzate solo per la garanzia di un adeguato livello di liquidità al sistema bancario, anche con garanzie pubbliche, e per un programma di rafforzamento patrimoniale delle banche, che preveda anche la sottoscrizione di nuove azioni. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo alla politica, da una parte Roma con il Movimento 5 Stelle che appunto con Virginia Raggi che appunto trova il nuovo vice sindaco, dall'altra parte Milano perché è da là che arrivano le ultime notizie con il sindaco Sala che sospende o elimina l'autosospensione. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, è proprio così, Simone, torno a fare il sindaco, certo della mia innocenza verso un'accusa che non costituisce un condizionamento della mia attività. Giuseppe Sala lo annuncia in un post su Facebook diretta ai milanesi. La fine della sua autosospensione è servita a capire le accuse per cui è indagato per falso nell'inchiesta sulla piastra, l'appalto più importante dell'esposizione universale, dalla procura di Milano. Sala però accusa anche la magistratura di averlo saputo solo tramite la stampa. Non ho alcun motivo di polemizzare rispetto al lavoro dei PM essenziale, dice, però in un funzionamento di un sistema democratico. Le indagini svolte dai miei legali, precisa poi il sindaco, hanno chiarito il merito dell'indagine e l'inesistenza di altri capi di imputazione. Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni chiama Sala poi per esprimergli apprezzamento per la scelta di tornare ad essere primo cittadino di Milano. Andiamo a Roma invece, dove la sindaca Virginia Raggi chiede una verifica interna sulla legittimità degli atti adottati da Raffaele Marra, ricordiamo il dirigente arrestato per corruzione nei giorni scorsi. E la sindaca interviene all'Assemblea Capitolina per riferire sulle nomine nuove della giunta, dell'assessora quindi all'ambiente Pinuccia Montanari e il vice sindaco Luca Bergamo. Ringrazia poi l'ex assessora all'ambiente Paola Muraro, indagata, e l'ex vice sindaco Daniele Frongia, mentre risponde di non sapere cosa dirà Raffaele Marra ai PM. A te, Simone. E grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Nuovi sequestri oggi di imprese ricollegabili in qualche modo al boss latitante Matteo Messina Denaro. L'analisi è di Daniele Biacchessi. La sensazione è che gli investigatori stiano arrivando a bussare alla porta del luogo protetto in cui si nasconde da anni Matteo Messina Denaro, l'ultimo latitante della vecchia mafia assaggista. L'ultima operazione della polizia di Trapani, Palermo, Castelvetrano, Mazara del Vallo è denominata Hermes 2 e ha impegnato agenti in copertura per lunghi mesi di appostamenti e intercettazioni. Sono 11 le ordinanze di custodia cautelare eseguite dagli investigatori. Questa indagine conferma l'unione criminale tra il clan mafioso di Mazara del Vallo guidato da Vito Gondola e il gruppo mafioso di Castelvetrano, il luogo dove è nato e cresciuto Messina Denaro. Gli accordi riguardavano essenzialmente la spartizione del sistema degli appalti attraverso alcune imprese apparentemente pulite, gestite da prestanome, dopo che il boss di Mazara del Vallo, Gondola, si era rivolto direttamente a Messina Denaro per risolvere alcuni problemi di tipo politico e criminale. Attraverso l'attività di queste imprese, Cosa Nostra si è dunque infiltrata nei lavori per la realizzazione del parco eolico di Mazara del Vallo e poi nei lavori di ristrutturazione dell'ospedale Abele Aiello tramite un subappalto della ditta Cemeci di Ravenna. C'è anche un giornalista coinvolto nell'operazione. Si tratta di Filippo Siracusa, collaboratore del Giornale di Sicilia, accusato di intestazione fittizia di beni. Sono gli ultimi passi di Matteo Messina Denaro, la cui rete di protezione si sta notevolmente allentando. A Roma oggi gli Stati Generali della Cultura, appuntamento ormai tradizionale organizzato dal Sole 24 Ore. Sentiamo. Valorizzare il nostro patrimonio culturale, questa è la chiave per rilanciare l'economia e farlo attraverso un legame sempre più stretto tra cultura e imprese. Questo è il messaggio che arriva dalla quinta edizione degli Stati Generali della Cultura, occasione anche per un bilancio sullo strumento dell'Art Bonus, introdotto nel 2014 per incentivare le donazioni da parte delle imprese a sostegno della cultura beneficiando di un credito d'imposta. Il ministro dei beni culturali Franceschini. Ma mi pare che complessivamente l'Art Bonus stia funzionando molto bene. più di 100 milioni di donazioni, sono oltre 3.000 donatori, siamo sulla strada giusta, ma si può crescere ancora molto. Bilancio positivo anche per il presidente del gruppo 24 ore, Giorgio Fossa. Sono stati risultati importanti in questi 3 anni, speriamo che anche con questo nuovo governo, che comunque ha continuato per quanto riguarda il ministro, ridia gli stessi risultati positivi. Ma sull'art bonus permane ancora un forte divario tra nord e sud del paese. Il numero dei mecenati nel mezzogiorno è infatti molto minore. Rosanna Purchia, sovrintendente della Fondazione Teatro San Carlo. Da sempre la Scala, per esempio, di Milano ha avuto il privato addirittura all'interno dei consigli di amministrazione, mentre nel sud questo fa fatica a radicarsi. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. Lo inizieremo dalla Sicilia, da Mineo, ormai cittadina, diciamo, in provincia di Catania, ormai celebre perché ospita il centro di accoglienza per richiedenti asilo, uno tra i più grandi d'Italia. Ne potrebbe ospitare 1.500, ne ospita al momento 3.000 e potete immaginare quali siano i problemi. Li denuncia da tempo il procuratore di Caltagirone, che sarà in linea con noi. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'attentato a Berlino con 12 vittime e arriva notizia, è una notizia di pochi istanti fa, secondo la quale ci sarebbe una giovane italiana dispersa a Berlino dopo la strage di ieri sera. Non vuol dire naturalmente che fosse là, non vuol dire che abbia perso la vita, ma la notizia al momento è che è dispersa, cioè non si sa dove sia. Abbiamo parlato della Turchia con l'attacco all'ambasciatore russo, abbiamo parlato della giunta di Milano con Sala che ha detto che torna a fare il sindaco, ha spiegato tutto in un post su Facebook, abbiamo parlato di Monte dei Paschi, di Mediaset e anche di Matteo Messina Denaro e dell'operazione di questa messa a segno questa mattina con i sigilli a 3 imprese e 11 arresti. Adesso torniamo in Sicilia per parlare del CARA di Mineo. Sono i CARA, i centri nei quali appunto vengono portati i richiedenti asilo in attesa del riconoscimento. Il CARA di Mineo è, nelle parole del procuratore di Caltagirone, che è in linea con noi, Giuseppe Verzera, buongiorno. Buongiorno a voi. Un'emergenza di Stato. Sono ospitate al momento 3.000 persone là dentro, un posto che ne potrebbe tenere 1.500, capito bene? Allora, in questo momento sono 3.700 gli ospiti del centro accoglienza, un numero che praticamente è pari al comune di Mineo, che dista alcune centinaia di metri dalla struttura. Quindi sono due città sostanzialmente che insistono sullo stesso territorio. È ingestibile una situazione del genere, ingestibili sono 3.700 profughi che la mattina escono e il pomeriggio fanno rientro, che fanno parte di etnie diverse, molto spesso contrapposte. Ogni giorno succede qualche cosa, come avvenuto la settimana scorsa in occasione di quel gravissimo stupro di una cittadina nigeriana da parte di 4 connazionali. C'è stato anche, tra l'altro, procuratore, se non ricordo male, un duplice omicidio, forse all'interno dello stesso CARA, no? No, il duplice omicidio è stato fatto da un ivoriano nella città di Palagonia. Sono stati uccisi 2 anziani di 70 anni il 30 agosto del 2015 mentre erano a letto e stavano dormendo. La donna è stata anche violentata, buttata dal balcone, una cosa terrificante. Comunque il l'ivoriano è un ospite del centro accoglienza. Qui l'emergenza intanto è la non gestibilità di 1.700 persone, ma poi le forze di polizia sono assorbite nell'attività di ordine pubblico all'interno della struttura, il che significa che il territorio è completamente scoperto, tant'è vero che si registra un'escalation di delitti non indifferente. Cioè un'escalation di delitti, in questo caso non fatti da ospiti del CARA, perché ci sono i poliziotti, i carabinieri e via dicendo, che sono impegnati appunto all'interno del CARA a mantenere l'ordine pubblico all'interno del CARA. Quotidianamente, perché al di là di quello che è l'ordine pubblico, diciamo, normale, ogni giorno succede qualcosa, ci sono arrestati, ci sono risse, ci sono maltrattamenti a qualunque, c'è gente che tenta il suicidio, quindi ci sono interventi continui da parte delle forze di polizia che di fatto sono distolti dall'attività investigativa e dal controllo del territorio. Lei capisce, immagino forse che sia anche così per lei, che un uomo di Stato che da cittadino normale è una cosa incredibile, cioè è un pezzo del nostro territorio che è completamente o quasi completamente fuori controllo. Non solo, ma non è possibile che il territorio che diciamo io ho competenza su Caltagirone, sulle zone limitrofe, è inconcepibile che questo territorio debba sopportare tutti questi migranti che sono da distribuire in tutte le zone, non soltanto italiane, ma dell'Unione Europea. Io queste cose le ho dette tante volte in tutte le sedi istituzionali, alla Commissione Antimafia, alla Commissione Libertà Civile e Migrazione, anche a quella bilancio Libertà Civile del Parlamento Europeo. Le ho dette, le ho segnalate anche con toni molto aspri, così è impossibile gestire la situazione. È quello che è accaduto il 30 agosto del 2015, quello che è accaduto la settimana scorsa con la nigeriana, sono fenomeni che quasi verificano continuamente, anche se magari non sempre si ha... Cioè sono le punte dell'iceberg, no. E immagino che il suo lavoro, il lavoro della sua procura sia sostanzialmente quasi completamente, se non completamente, assorbito da tutto questo. Il lavoro è assorbito, l'organico è sostanzialmente lo stesso, anzi io su 4 sostituti ne ho a disposizione in questo momento soltanto 2, perché altri 2 sono andati via, sono stati trasferiti, quindi come possiamo in 3 persone gestire tutte queste vicende. Io sono io faccio processi in corte d'assise tipo quello di Palagonia, perché non ho chi mandarci. Siamo in uno stato di fortissima emergenza, ripeto, segnalato tantissime volte in tutte le sedi istituzionali. Procuratore, lo dico sullo spunto anche di un ascoltatore che ci scrive via WhatsApp e ci dice perché l'esercito va a Milano e non là? Io divento pazzo. Potrebbe servire l'esercito a Mineo? Ma c'è un contingente dell'esercito, ma non bastano tutti questi uomini. Noi stiamo parlando del controllo di 3.700 persone, 3.700. Tra queste sicuramente ci sono quelle pulite, ma non sono tutte così, molta di questa gente delinque, e controllare 3.600 persone significa controllare una città, e gli uomini sono sempre gli stessi, anzi qua tutte le forze di polizia sono sotto organico in sofferenza, e quindi ripeto, è una situazione ingestibile. Quello che lei ha detto in esordio, il CARA per me è un affare di Stato. La ringrazio. Grazie a Giuseppe Verzera, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, per aver accettato il nostro invito ad essere stato nostro ospite. Come vedete è un bel problema e ci torneremo sicuramente. Adesso cambiamo zona e ci spostiamo a Venezia per parlare di quello che apparentemente, o almeno così viene presentato dai giornali, lo chiederemo ad uno dei due protagonisti, appare essere uno scontro tra l'amministrazione comunale e il patriarca di Venezia. Perché? Perché il comune ha deciso che le mense dei poveri non devono più stare in città a Venezia, ma va creata una sorta di cittadella della povertà. Francesco Moraglia è il patriarca di Venezia in linea con noi. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Allora, è così, il comune vuole spostare tutte le mense dei poveri? Ma c'è un progetto che al momento è solo un'idea, ecco, lanciata alla cittadinanza. Nel valutare uno spostamento, direi abbastanza programmato in una zona della città per dare questi servizi, soprattutto le mense, a queste persone che sono in difficoltà, ecco, e che noi seguiamo, accudiamo con varie mense, alcune diocesane, la Caritas, San Vincenzo, poi ci sono anche i Cappuccini, poi qualche altra mensa privata, ecco, che fanno questo servizio importante in luoghi differenti della città. in luoghi differenti della città, e mi sembra di aver capito che lei è abbastanza contrario a questa ipotesi di concentrare le mense per i poveri e i servizi per i poveri in un'unica zona. Io capisco che il sindaco voglia venire incontro ad alcune esigenze, anche obiettivi reali, perché intorno alle mense molte volte ci sono anche movimenti, frequentazioni, molte volte noi dobbiamo garantire anche l'ordine nella sala della mensa, quindi possiamo immaginare che ci possano essere anche dei disguidi, delle sofferenze, dei comportamenti inappropriati, e quindi non deve essere sottovalutata questa realtà nel centro cittadino. D'altra parte però l'idea che vorrebbe forse venire incontro a questa esigenza obiettiva si scontra un po' col fatto di creare un enclave, diciamo, più che della carità, della povertà. Quindi il timore, credo reale, ecco, è quello di formare una sorta di città. C'è un po' l'idea di fondo, diciamocelo: non voglio vedere i poveri in giro, li piazzo tutti in un posto. Ma io spero che questa non ci sia, ecco, voglio pensare solo a un certo disagio che certa popolazione può avere, potrebbe anche che in essere in alcuno questa idea. Allora, noi pensiamo che la soluzione non sia questa, non sia in questi termini, sia certamente vedere se si possono distribuire le nostre mense in un modo più articolato, però non portarle al di fuori del contesto sociale, perché si creerebbero, a mio modo di vedere, dei serbatoi esplosivi, e nello stesso tempo si creerebbe anche in queste persone già in difficoltà una mentalità ulteriore di esclusione, e a mio avviso anche un po' un ghetto, visto che di Venezia che si parla. Ecco, il rischio potrebbe essere anche questo. Allora io auspico un parlarci nel vedere obiettivamente le difficoltà, cercare di risolverle e mantenere un po' una distribuzione, ecco, di questi servizi di carità che, se organizzati bene, se corretti in qualche loro discrasia che può esserci, possono essere anche un modo di intendere la città in modo solidale, ecco, diverso rispetto a delegare alcuni spazi che poi sanno, come si diceva, un po' di emarginazione, e più che essere città o spazi della solidarietà rischiano, un po' le periferie francesi lo insegnano, a diventare dei luoghi della emarginazione, dove addirittura si radicalizzano poi le tensioni e le sofferenze tra queste persone e la popolazione. La ringrazio, grazie Francesco Moraglia, che è il patriarca di Venezia, per essere stato con noi. Buona giornata. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati come sempre, e poi, ve l'ho promesso, questa settimana ogni giorno in uno dei comuni terremotati in vista del Natale, per farci raccontare un po' come vanno le cose, come si stanno organizzando, come la stanno vivendo. Andremo ad Amatrice oggi, a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: ci sarebbe anche una ragazza dispersa a Berlino, non si hanno notizie ulteriori, le informazioni vengono diffuse in questi minuti dalle agenzie, le vittime sono 12, secondo i media tedeschi l'arrestato, un profugo pakistano, avrebbe negato tutto. Era stato sospeso e reintegrato il poliziotto che ieri ha ucciso l'ambasciatore russo in Turchia, lo si riteneva coinvolto nel tentato golpe. 7 fermi e nella notte proiettili contro l'ambasciata americana. A Milano Sala torna a fare il sindaco. Sono certo della mia innocenza, dice. A Roma Raggi annuncia una verifica su tutti gli atti di Marra. Scudo del governo per le banche messo in campo 20 miliardi. Secondo giorno di aumento di capitale per Monte dei Paschi, su, anche se di poco, il titolo in borsa. I mercati. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo. Prima di riprendere il nostro giro per l'Italia, fateci toccare un tema del quale ci siamo occupati spesso, ed è quello un po' scandaloso per come stanno funzionando e hanno funzionato le cose finora delle adozioni internazionali. La Francia dal 31 dicembre sospenderà l'adozione di bambini nella Repubblica Democratica del Congo. Lo ha reso noto il Ministero degli Esteri, che cita l'insufficienza di garanzie giuridiche ed etiche. E anche sulle adozioni italiane dei bambini congolesi si allunga un'ombra che è sempre più pesante. Je peux compter 10 qui avaient des parents. 10 bambini adottati hanno in realtà i genitori. L'intermediaria congolese se lo fa sfuggire quasi per sbaglio. Si tratta di Benedicte Masika Sabuni, direttrice dell'orfanatrofio SPD a Goma, intervistata in un documentario americano andato in onda pochi giorni fa. Madame Benedicte cita proprio l'Italia. Una missione di quello di cui si vocifera da mesi dopo il blocco delle adozioni in Congo durato 3 anni, che i bambini in alcuni casi siano stati rubati. Nel documentario americano, lo zio di 3 bambine congolesi sparite mostra un pezzo di carta. I accept to give my 3 children to go in a foreign country. Accetto, si legge, di mandare i miei 3 figli in Europa, in Italia. Non c'è nulla però che parla di adozione, dice l'uomo. Paola Crestani, presidente CHAI, uno dei più grandi enti in Italia, che si è sempre rifiutato di lavorare in Congo perché, dice, non è un paese sicuro. Questa inchiesta getta molte ombre sulle adozioni del Congo e in particolare le adozioni fatte dall'Italia. Sarebbe importante avere una commissione adozioni attiva che possa fare tutte le indagini, i controlli, le verifiche indispensabili. La commissione adozioni internazionali non si riunisce da 3 anni. La presidente da giugno è Maria Elena Boschi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una piccola precisazione me lo fa notare un ascoltatore con una certa brutalità. Monte dei Paschi adesso è in ribasso. A dire il vero, la giornata è stata piuttosto convulsa perché in apertura aveva fatto un 4%, poi era arrivata a 0. Alle 13:20 era ancora in guadagno dello 0,05% e adesso scende. Non c'è bisogno di invocare il mio licenziamento per un errore di questo tipo. Grazie comunque. Riprendiamo il nostro giro per l'Italia. Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, come vanno le cose? Bene. Bene? Sì. Sono arrivate le casette? Sì, una parte, poi io penso, mi auspico che a breve arriveranno le altre, perché noi abbiamo consegnato le arie, cui dai, buon segnale. Un buon segnale. Come vi state preparando al Natale? A Natale siamo tutti insieme. C'è chi, io ho messo a disposizione dei cittadini anche la profonda generosità di tutta Italia, per cui ci saranno 125 miei concittadini che andranno a Sharm el Sheikh, altri saranno qui perché noi facciamo il Natale insieme nelle 3 mense, abbiamo alternate a mezzogiorno e mezzo a Torrita, all'1 si incomincerà il pranzo a Sommati e all'1:30 ad Amatrice Centro, perché qui ci sono 3 mense che stanno a servizio della mia comunità, perché qua non c'è niente. I cittadini come stanno? Farò il giro delle 3 mense mangiando il primo da una parte, il secondo da un altro, il dolce da un altro, se no poi metto sui chili, però io sto insieme alla mia gente, dai. Come giusto che sia, il 31 lo faremo tutti insieme però. Il 31 lo farete tutti insieme, come stanno i cittadini, sì. Come va? I cittadini ci sono sempre stati. Il giorno del terremoto stavano qui perché l'essere umano c'è, resiste, c'è vita, eppur nella distruzione c'è vita. Io penso che la cosa indispensabile sia quella, insomma, il senso d'appartenenza c'è. Sono rimaste 1020 persone, noi abbiamo il censimento anche per poter aiutare quegli anziani che hanno difficoltà ad andare nelle 3 mense, perché queste 3 mense stanno a disposizione dei miei concittadini, facendo un grande lavoro. Però noi andiamo a trovare tramite volontari, sappiamo quali sono i loro bisogni. Oggi abbiamo firmato una convenzione con la comunità di Sant'Egidio che si occuperà solo ed esclusivamente degli anziani, cui stiamo vicino alla gente, alla gente. Che sia. Alla gente. La ringrazio, grazie Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, buon Natale e in bocca al lupo per il suo lavoro. E ci spostiamo nel nostro giro per l'Italia a Bari. Vitandrea Marzano è referente dell'Agenzia per la lotta non repressiva alla criminalità organizzata del Comune di Bari. Buongiorno Marzano. Buongiorno. L'abbiamo chiamata per questo. Oggi c'è stato un fatto che ci ha colpito molto. Una rapina ad una sala slot con il mitra, tre arresti. Il punto è che il più piccolo di questi tre, di questa parte del comando, ha 15 anni, il più grande ne ha 20. Che cosa succede, Marzano? Ma succede un fenomeno che fondamentalmente, diciamo, sta rispecchiando all'interno dei sistemi devianti e criminali quella che è la composizione della nostra società, nel senso che abbiamo una criminalità liquida che interessa gli strati giovanili, che è figlio ovviamente della disoccupazione, di quel 58% di disoccupazione giovanile, diciamo, che vediamo a scala nazionale, che non riconosce fondamentalmente le istituzioni, che si muove, diciamo, spesso guidata dagli istinti della tossicodipendenza e degli stupefacenti, quindi, diciamo, la facilità di accesso a certi consumi che non sono propriamente culturali, e che si riversa, diciamo, in queste forme di degenerazione che colpiscono, perché ovviamente, insomma, sapere di un mitra nelle mani del 17enne è una notizia, diciamo, molto più interessante e più sorprendente, diciamo, di un mitra nelle mani della vecchia criminalità organizzata, per come la sappiamo, la conosciamo fino ad oggi. Beh sì, un mitra nelle mani di un quindicenne è decisamente più sorprendente. È decisamente più sorprendente, diciamo, del resto Saviano ne sta scrivendo con la sua nuova Paranza dei Bambini, in cui sta denunciando questo fenomeno. Un fenomeno che ovviamente su Napoli ha delle dimensioni molto più importanti che su Bari, che sono per fortuna, diciamo, una città interessata in maniera minore dal fenomeno, diciamo, di una camorra, di un'organizzazione di quartiere come storicamente le è Napoli, ma che comunque ha delle forti infiltrazioni criminali. Sì. E che si stanno, diciamo, evolvendo, metropolitanizzando. Ma quindi, diciamo, Marzano, mi faccia capire una cosa: è qualcosa di strutturato anche in questo caso? E quindi, come dire. Cioè... Assolutamente no. Assolutamente no, nel senso che spesso va detto che la dissipazione, diciamo, le distorsioni del fenomeno giovanile criminale danno fastidio ai clan, nel senso che non sono organizzati dei clan. Ovviamente questi ragazzi sono utili, diciamo, ai clan per soprattutto lo spaccio di stupefacenti o comunque, diciamo, la distribuzione che hanno in certi contesti giovanili, dove oggi comunque è molto più prolifica una certa attività economica e criminale, ma nel momento in cui vanno ad armarsi e vanno a comandare, come dicono, diciamo, le canzoni contemporanee, in qualche misura creano anche fastidio, turbolenza, diciamo, creano attenzione su dei quartieri dove si stanno organizzando cose ben più importanti, quindi, diciamo, rispecchiano, se vogliamo, l'inquietudine dei giovani, diciamo, delle società legali cosiddette, che in altre forme esprimono le loro inquietudini, semplicemente questo. Non sono forme organizzate, tanto è vero che al termine di questa bravata gli arresti sono stati compiuti nel giro di pochissimi minuti. Ragazzi sono già attenzionati dai servizi sociali, hanno dei rapporti con la scuola molto controversi, entrano ed escono, diciamo, dei carceri minorili, quindi in pochissime ore sono stati arrestati e catturati. La ringrazio. Grazie Vitandrea Marzano. È pericoloso, da attenzionare comunque. La ringrazio. Molto interessante. Grazie a voi. Vitandrea Marzano. A chiudere abbiamo un minuto per un aggiornamento dalla Sardegna, dove il maltempo ha colpito duramente. C'è il rischio, a quanto pare, di esondazione della diga di Torpè in quelle aree. Nel 2013 morì una donna, tra l'altro, proprio per un'alluvione. Siamo lì col sindaco di Torpeo, Marcabras. Buongiorno sindaco, benvenuto. Sì, salve, grazie. Come vanno le cose? Ma la situazione è sotto controllo, quindi non desta preoccupazioni, per fortuna, anche perché è cessato di piovere, i sistemi di allertamento hanno funzionato benissimo, quindi i tempi sono cambiati, per fortuna, insomma, siamo più preparati rispetto al 2013 sicuramente. C'è stata l'evacuazione di 35? C'è stata un'evacuazione, sì, giusto per in via precauzionale comunque, però ripeto, i livelli anche del Rio Posada stanno comunque diminuendo e quindi la situazione l'emergenza sta rientrando. Quindi siamo tranquilli e siamo contenti che ci abbia tranquillizzati. Grazie ad Omar Cabras. Grazie a voi. Grazie al sindaco di Torpè per essere stato con noi. Adesso il traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.